Coffee Break Italian, Season 2, Episode 35. Buongiorno a tutti e benvenuti. Siamo tornati con ancora un episodio di Coffee Break Italian. Io sono Mark. Ciao a tutti, io sono Francesca. Come stai, Francesca, oggi? Sto bene, Mark, grazie mille. E tu? Sto bene, grazie. L'autunno è arrivato, comunque. Sì, anzi, siamo nel pieno dell'autunno. Sì, troppo vento, troppa pioggia. Sì, però le foglie sono bellissime. Meravigliose. I colori incantevoli. No, that's not quite like the summer that our characters are experiencing in Trento, is it? No, è tutto un altro mondo. In fact, I was hearing from a friend who has been in Venice over the past week and says it's still like summer there and uh-huh. They're enjoying very warm weather. Lucky them. Oh, we don't want to know, do we? We do not. We hope that you're all enjoying this soap opera and that it's giving you a chance. If you're listening to this for the first time, you might be wondering, what on earth is the soap opera all about? Well, we're listening to episodes of a soap opera. We're on episode 5 of our soap opera this week, and we are experiencing a story which includes some interesting events, but lots of interesting grammar and expressions and vocabulary and so on. What's it called? Come si chiama questo soap opera? Si chiama La Mia Estate. And it's called La Mia Estate because our main character is Mia. Sì, we è un gioco di parole. Esatto. We will find out what happens with Mia and indeed the other characters, perhaps more specifically Riccardo and Maria today, but we won't say any more about that just now. Sei pronta? Prontissima. Allora, cominciamo. Sì. Okay, so we're now at episode 5 of our soap opera. Francesca, can you summarize in Italian what's happened so far or what's happened in the previous episode? Va bene, sì. Allora, nell'episodio precedente abbiamo visto Mia, Anna e Giorgio al campeggio, mentre preparano tutto per una serata speciale. Ovviamente Riccardo fa la sua solita scenata quando sente che Mia parla in inglese con i suoi amici. Comunque, Maria per fortuna risolve la situazione e riesce a passare una bella serata con Riccardo, chiacchierando e ballando. Maria si offre anche di aiutare Riccardo a cercare una casa in Italia e sembra che tra loro stia nascendo qualcosa. Tutto sembra perfetto fino a quando Riccardo nota che sua figlia sta ballando con Giorgio e ovviamente non accetta questa situazione, né tantomeno capisce che, in teoria, i due stanno ballando insieme solo per invogliare gli ospiti del campeggio a scendere in pista. Sicuramente, Mark, ti ricorderai che la serata è finita abbastanza male, vero? Mi ricordo proprio all'ultima frase pronunciata dalla narratrice. Tutti vanno a dormire un po' amareggiati. Sì, bravo, amareggiati. We discussed that, didn't we? And I think we also mentioned l'ennesima brutta figura di Riccardo. Sì, ti ricordi bene. Ma allora, Mark, cosa dici? Vediamo se Riccardo riesce a comportarsi bene in questo episodio? Sì, vediamo. Ok. Let's have a listen then to the whole episode. Just before we do, I wanted to mention that although that sounded like lots and lots of Italian that Francesca has just spoken, lots of it was recapping on what we covered previously. So, for example, the vocabulary was taken straight from the previous episode. Sí. Hopefully you've pieced together lots of what she said. And there were a few little interesting grammar points in there as well. Mm. I noticed a stia in there. We'll explain that in the notes. Okay, let us now have a listen to the full episode. And then, of course, as usual, we'll go back and talk about the various parts of this full episode. So let's have a listen to episode 5 of La Mia Estate. Buongiorno, signora Maria. Mi scusi per il ritardo, ma non riuscivo a trovare la stazione. Niente di male, è ancora presto. Abbiamo anche tempo per un caffè. Sì, ho proprio bisogno di un caffè doppio questa mattina. Ieri notte non ho chiuso occhio. Continuavo a pensare a quello che è successo al campeggio e al mio comportamento ridicolo. mi sento veramente stupido. Non esageriamo. Queste cose succedono. Anch'io sono un genitore e non sempre mi comporto correttamente con Anna. Non è facile. Purtroppo non si nasce con il libretto di istruzioni per i figli. Ha ragione. Io devo iniziare ad accettare che Mia non è più una bambina e ha bisogno della sua indipendenza. Bravo, signor Riccardo. Senta, ma perché non ci diamo del tu? Va bene, signora. Va bene, Maria. Riccardo e Maria, che finalmente hanno deciso di darsi del tu, si sono incontrati alla stazione di Trento per andare insieme fino a Vipiteno, un paesino dell'Alto Adige al confine con l'Austria. Riccardo vuole comprare una casetta o un appartamentino in montagna e Maria si è offerta di aiutarlo. I due prendono un caffè e chiacchierano tranquillamente delle loro rispettive figlie e della vita in generale. Riccardo si sente a suo agio con Maria, la guarda, la ascolta e sorride. Oddio, Riccardo, che ore sono? Le 10:15, perché? Ecco, abbiamo appena perso il treno. È partito 2 minuti fa, il prossimo è fra 2 ore. Scusa, è colpa mia. Chiacchiero sempre troppo. No, figurati. Il problema è che d'estate ho solo un giorno libero a settimana e quindi dobbiamo aspettare giovedì prossimo per andare a Vipiteno. Senti, ho un'idea. Ho visto che c'è un treno alle 10 che va a Riva del Garda. Possiamo passare la giornata al lago di Garda. Che ne dici? Ma sei sicuro? Certo, tu hai fatto così tanto per me e Mia, e questa è l'occasione per sdebitarmi. Dai, allora andiamo, se no perdiamo anche questo treno. Che bella idea ha avuto Riccardo. I due hanno passato una splendida giornata al lago di Garda. Il tempo era perfetto e così hanno potuto fare una gita in barca e poi gustare dell'ottimo pesce in un ristorantino in riva al lago. Dopo aver mangiato un gelato e aver fatto ancora 2 passi, Riccardo e Maria prendono l'ultimo treno per Trento e tornano a casa. Ecco, siamo arrivati. Grazie mille per il passaggio e per la bellissima giornata. Sono stata davvero bene. Anch'io, Maria. Ciao, buonanotte. Sogni d'oro, Riccardo. Prima di scendere dalla macchina, Maria abbraccia Riccardo, a cui manca per un attimo il respiro. Riccardo è al 7° cielo. Ritorna al suo albergo stanco, ma anche pieno di energia. Wow, quante cose sono successe! Sì, e hai visto, per una volta Riccardo non ha fatto disastri. He hasn't done his scenata, sì, as you said earlier. Si è comportato bene, per fortuna. Per fortuna, finalmente. Sì, era ora. Allora, ascoltiamo di nuovo la prima parte del dialogo. Buongiorno, signora Maria. Mi scusi per il ritardo, ma non riuscivo a trovare la stazione. Niente di male, è ancora presto. Abbiamo anche tempo per un caffè. Sì, ho proprio bisogno di un caffè doppio questa mattina. Ieri notte non ho chiuso occhio. Continuavo a pensare a quello che è successo al campeggio e al mio comportamento ridicolo. Mi sento veramente stupido. Non esageriamo. Queste cose succedono. Anch'io sono un genitore e non sempre mi comporto correttamente con Anna. Non è facile. Purtroppo non si nasce con il libretto di istruzioni per i figli. Ha ragione. Io devo iniziare ad accettare che Mia non è più una bambina e ha bisogno della sua indipendenza. Bravo, signor Riccardo. Senta, ma perché non ci diamo del tu? Va bene, signora. Va bene, Maria. Allora, Mark, in questa prima parte, secondo me, ci troviamo in una situazione in cui sicuramente molti dei nostri ascoltatori si sono già trovati. La stazione. La stazione. Normally we would be in the station to book tickets and so on, and that's really what we've been focusing on in Coffee Break Italian anytime we've been in a station before. But here, obviously, something more is happening. We've got a heart-to-heart between Maria and Riccardo in the station. I have to say, I love Italian stations. There's just something different about le stazioni italiane. Sì, è vero. Anche a me sembra così. E se penso all'Italia, alle sue stazioni, mi viene in mente in particolare quel tragitto tra Mestre fino a Venezia Santa Lucia. Yeah, now just to explain to our listeners, we've got Mestre, which is kind of on the mainland, as it were. And then you take a train from Mestre into Venezia Santa Lucia. And, well, you go along a very narrow causeway, I guess, and you're then in the lagoon, basically. Sì, è come lasciare il mondo reale e entrare in un mondo fantastico. Esatto. Anyway, let's get back to our episode, I think. So, what's happening here? It's happening something that it's very familiar to me. What do you mean? Riccardo è un po' in ritardo. Ma tu sei mai in ritardo? Non sei mai in ritardo. Anche questa mattina ero in ritardo. No. Okay, so Riccardo is a bit late, but Maria says not to worry, and then she says that they still have time for a coffee. E perché Riccardo ha proprio bisogno di un caffè doppio, Mark? He uses a really nice phrase. He says non ho chiuso occhio, or non ha chiuso occhio. He hasn't literally closed an eye. And that basically means they couldn't sleep all night. Mm-hmm. He was obviously feeling a little bit guilty about what he did at the campsite, yeah. Però Maria lo consola e lo rassicura, vero? Yeah, she says, queste cose succedono, these things happen. She also adds something that's quite interesting. She says, purtroppo, unfortunately, non si nasce con il libretto di istruzioni per I figli. You're not born with the instruction book for children. And I can notice a nice sì impersonale there, si nasce. One is born or people are born, that kind of thing. Good. Towards the end of the first section, Riccardo seems to acknowledge the fact that he's being a little overprotective towards his daughter Mia. Sì, è davvero incredibile. Infatti lui dice, devo iniziare ad accettare che Mia non è più una bambina e ha bisogno della sua indipendenza. Exactly. I have to accept that Mia is no longer a baby girl, or just a baby, I guess, and she needs her independence. Ha bisogno di, one of those expressions with avere bisogno di, to need something or to have need of something. Sì, è vero, è importante. E Mark, un'altra cosa. I was wondering if towards the end you spotted a very useful question which suggests that Maria e Riccardo won't be using the formal way of speaking anymore. I did indeed. It's a very useful phrase that you can use when you reach a certain point in your relationship with someone, I guess, if you're just getting to know someone, and not necessarily in a romantic way. No, just, anyway, perché non ci diamo del tu? Why don't we literally give each other of the tu form? Why don't we call each other tu? Rather than lei. Than lei. I suppose in English, it's kind of like beginning to use first names rather than Mr. or Mrs. or something like that. I suppose you could think of it that way. I've never thought of that, but it makes sense. We don't really have the same situation in English, so it's a little bit peculiar. Let's go on and listen to the next section, which is where the narrator gives a little bit of background. Riccardo e Maria, che finalmente hanno deciso di darsi del tu, si sono incontrati alla stazione di Trento per andare insieme fino a Vipiteno, un paesino dell'Alto Adige al confine con l'Austria. Riccardo vuole comprare una casetta o un appartamentino in montagna e Maria si è offerta di aiutarlo. I due prendono un caffè e chiacchierano tranquillamente delle loro rispettive figlie e della vita in generale. Riccardo si sente a suo agio con Maria, la guarda, l'ascolta e sorride. Allora, in questa parte la narratrice ci spiega cosa succede alla stazione. Sì, è davvero una bella scenetta. È una scenetta e non è una scenata. Oh, no, no, no. That's interesting. Scenetta, a little sin. Sì. But una scenata is when you cause a sin. Sì, è negativo. A negative sin. Ok, allora, quali sono le cose più importanti di questa scena? Ok, riassumo brevemente. Maria e Riccardo sono alla stazione di Trento e hanno deciso di andare a Vipiteno, un paesino al confine con l'Austria, per vedere una casa per Riccardo. Loro due parlano tranquilli e verso la fine c'è una bella espressione che descrive come si sente Riccardo. It's a nice one. She says, si sente a suo agio. Bravissimo. It's a tricky word to pronounce, agio. Sì, agio, at ease. At ease. And it's one of those words that we need to be very careful with that G-I, because you almost think, looking at the word, that there are three syllables there, agio, but there's two syllables, sì. Agio. Agio, agio. Sì. Okay. Right, let's go on and listen to the next scene, because things are developing here, because, well, something's happened, hasn't it? Oh. Oddio, Riccardo, che ore sono? Le 10:15, perché? Ecco, abbiamo appena perso il treno. È partito 2 minuti fa, il prossimo è fra 2 ore. Scusa, è colpa mia. Chiacchiero sempre troppo. No, figurati. Il problema è che d'estate ho solo un giorno libero a settimana e quindi dobbiamo aspettare giovedì prossimo per andare a Vipiteno. Senti, ho un'idea. Ho visto che c'è un treno alle 10 che va a Riva del Garda. Possiamo passare la giornata al lago di Garda. Che ne dici? Ma sei sicuro? Certo, tu hai fatto così tanto per me e mia. E questa è l'occasione per sdebitarmi. Dai, allora andiamo. Se no perdiamo anche questo treno. Oh, che disastro! Beh, no, in realtà no, non è proprio un disastro, vero? Infatti mi viene in mente che qualche episodio fa abbiamo imparato che non tutto il male viene per nuocere. È vero, so non tutto il male viene per nuocere. Not all, or every cloud has a silver lining, sì. rather than something negative. Okay, let's continue. Sì, andiamo con ordine, Mark. Allora, la prima domanda che ho per te è: ti ricordi che ore sono all'inizio del dialogo? Certo. Le 10:15, a quarter to ten. Bravissimo, and a lot of other numbers follow, mm-hmm. So it can be a bit confusing here. Let's clarify what happened. Okay, so Riccardo and Maria have missed their train, hanno perso il treno, mm-hmm. Literally they've lost the train. Sì. Il treno è partito 2 minuti fa, so it left 2 minutes ago. And the next one isn't for another 2 hours. And sì. Watch the preposition used here. Bravo, fra 2 ore, in 2 hours. Okay, so things are not falling into place, but Riccardo has an idea. Sì, there's a train going to Riva del Garda at 10. Another beautiful part of the world. Sì, alle 10. And Riccardo suggests that they can spend the day there. Una buona idea. Mm-hmm. And he also uses a structure we have seen before to ask for Maria's opinion. That's right. He asks literally, che ne dici? What about it do you say? What do you think? Che ne dici? Bravissimo. Maria non è sicurissima in realtà, ma Riccardo dice: questa è l'occasione per sdebitarmi. Oh, this is a fantastic word. Now, we do not see many Italian words that begin with SD. No, it's a bit unusual. It actually comes from the word debito. Yeah, so that's like debt. Debt, sì. And the prefix s indicates the, let's say, the removal of something, if yep. It makes sense. Mm-hmm. In this case, removing the debt that Riccardo has towards Maria. Yeah, so to remove my debt or to undebitify myself. Sì, sì, sì. Okay, sì. Can you give us some more examples of how we would use this S to basically indicate the removal of something? Okay, let me think. Okay, struccarsi. Oh, right, okay, I'm going to guess here. Okay. Struccarsi is to put on your makeup. Sì. Struccarsi to take off your makeup. Sì, sì. A word I use very often. Or probably more useful is sbucciare una mela. Sbucciare. Well, sbucciare. Sbucciare. Sbucciare is to peel. Sì, to remove la buccia. What's the buccia? La buccia is the peel. All right, okay, that is a new word for me. La buccia di una mela. Sì. So sbucciare, to remove the skin. Sì, okay. O spolverare. Sorry, going back to this, this is the wonderful thing about language. Sbucciare, to remove the peel. Uh-huh. So the peel here is a noun. We talk about the peel of an apple, mm-hmm. I think. But to peel is also a verb. So in English, we've got the peel and to peel. I peel the peel of the apple. I peel the skin of the apple. But in Italian, we've got la buccia and then sbucciare. So sì. We're taking off the peel. Sì. So I would say sbuccio la buccia della mela. No, sbuccio la mela. Ah, okay. So we don't need the object there. No. Sbuccio la mela, sbuccio la pesca. Okay, fair dues. Okay. Any other examples? Let me think. Spolverare. Ah, okay. So polvere is dust. Sì. So spolverare would be mm-hmm. to take away the dust, sì. Which ironically in English we call to dust. I know, it's always a bit confusing for me. It goes the other way around, I think. Sì. Yeah. Okay, I like these z words. I'll give you another one then, Mark, but I want you to guess it. I'll give you the scenario. Okay. Imagine the situation is a bit tense, everyone is worried, and you want to say or do something to play it down. Okay. Can you think of a verb? Well, I'm guessing it's going to begin with an S. Sì, I'll give you a clue. Okay. In, let's say, literally, you want to remove the drama. Can you say sdrammatizzare? Sì, I sì, love it. Sì. Okay. Oh, it's brilliant to play with language. And let me see if... Could we say... Oh, right, okay, we're coming up to Halloween as we're recording this. And we're talking about masks and things and dressing up. Mm-hmm. To unmask someone, could you say smascherare? Sì, sì. Wow, okay, this has been an eye-opener for me. Wow. We're stiamo smascherando la storia anche. Stiamo svelando. Svelando, revealing. Okay, we're getting a little bit too into sì, this, I think. Sì. Let's see what happens in the Lago di Garda. Va bene. However, before we do that, let's take a short break. I was getting so involved in all these words that I forgot about our break. Interrompiamo questa trasmissione per una comunicazione importante. If you'd like to make faster progress with your Italian, don't forget that you can use the premium version of this course, which features video versions of the lessons, comprehensive lesson notes, and bonus listening materials. Allora, cosa aspetti? What are you waiting for? If you'd like to take your Italian to the next level, go to coffeebreakitalianplus.com. Welcome back. As you know, we are listening to our soap opera. We're in episode 5 and our narrator is just going to tell us what's happening in the Lago di Garda with Riccardo and Maria. Che bella idea ha avuto Riccardo. I due hanno passato una splendida giornata al Lago di Garda. Il tempo era perfetto e così hanno potuto fare una gita in barca e poi gustare dell'ottimo pesce in un ristorantino in riva al lago. Dopo aver mangiato un gelato e aver fatto ancora due passi, Riccardo e Maria prendono l'ultimo treno per Trento e tornano a casa. Oh, that's a lovely example of the passato prossimo and the imperfetto in the same sentence. Sì, ti riferisci a quando la narratrice dice i due hanno passato una splendida giornata al lago, il tempo era perfetto e così hanno potuto fare una gita in barca e gustare dell'ottimo pesce. Exactly, and beautifully said as well. Il tempo era perfetto. When we're talking about weather, we're describing it in the past, so we're more likely to use the imperfect tense, but talking about what they were able to do, hanno potuto fare una gita in barca. They were able to take a boat trip and enjoy the wonderful fish dishes that you can get in the Lake Garda. Okay, we don't really need to go through the passato prossimo versus the imperfect. We've talked about this lots. Just this idea that when we're talking about a roller, the idea we're describing something, dum-de-dum-de-dum, the weather was always being perfect, but at that point they were able to thtum and potuto fare una gita in barca. And if you don't know what we're talking about, these thtums, then go back and listen to a previous episode when we talked about thtums and dum-de-dum-de-dums. Ok, ma torniamo alla giornata di Maria e Riccardo. Esatto. Allora, Mark, after the description of the lovely day they spent at Lake Garda, the narrator uses an expression meaning to go for a short walk. Mm-hmm. Did you get that expression? It's an expression I've always really liked because it's a very, very short walk. You take literally two steps. Bravo. In italiano? Fare due passi. Ottimo, sì. So if you wanted to say, let's go for a walk, could you say, facciamo due passi? Sì, facciamo due passi, andiamo a fare due passi. Of course, so the andiamo, let's go for a walk when mm-hmm. we're going out, and then we're doing the two steps once we're out. Sì. Okay. There was also a nice thing in there because you said, as the narrator, dopo aver fatto ancora due passi, so after having done those two steps, dopo aver fatto due passi, and then they took the last train back to Trento. Sì. Excellent. Okay, they are on their way back to Trento. Riccardo's dropping Maria off at the campsite. Let's listen to this next section. Okay. Ecco, siamo arrivati. Grazie mille per il passaggio e per la bellissima giornata. Sono stata davvero bene. Anch'io, Maria. Ciao. Buonanotte. Sogni d'oro, Riccardo. Well, this is a very short exchange this time. Yeah, it's short, but non lo so, Mark, c'è qualcosa di romantico nell'aria. Something romantic in the air, yes. Yeah, I really like the way Maria says, sono stata davvero bene. Okay, so literally, I have been truly well. Mm-hmm. It means that she has had a really nice time. She's really enjoyed herself. Sì, and I also like sogni d'oro. Dreams of gold. Sì. Excellent. Ma non sognare troppo, Francesca, dobbiamo okay. ancora ascoltare l'ultima parte. Va bene, resto sveglia. Prima di scendere dalla macchina, Maria abbraccia Riccardo, a cui manca per un attimo il respiro. Riccardo è al settimo cielo, ritorna al suo albergo stanco ma anche pieno di energia. Allora, cosa ne pensi, Francesca? Ah, finalmente un episodio che finisce bene. Can we have a look at what happens to Riccardo when Maria hugs him? Sì, Maria abbraccia Riccardo, a cui manca per un attimo il respiro. Ooh, an interesting structure there, because we're using mancare. Sì. Literally to miss, but it's kind of missing to someone, isn't it? Sì, missing to him, and mm-hmm. in this case, to whom. Yep. Is missing. So, to whom is missing for a moment the breath. The breath, il respiro. So, when Maria embraces Riccardo, he loses his breath for sì, a moment. He can't breathe for can't a breathe, moment. Yeah. Oh, my goodness me. Riccardo è veramente felice. Sì, addirittura è al settimo cielo. Seventh heaven? Sì. Or we also say cloud nine, to be on cloud nine. Ah, che carina questa espressione. You can't say that in Italian, though. No, sulla nuvola nove, no. Sounds a little bit strange. Sì. Allora, speriamo che anche i nostri ascoltatori siano al settimo cielo dopo aver ascoltato l'episodio numero 5 della nostra soap opera. Sicuramente sono al settimo cielo. Okay, that is it for this episode. Of course, we're just about to record our bonus episode, in which we're going to go through the whole text line by line and explain everything. And that is part of our bonus materials. In our bonus materials, you'll also get a complete set of notes on this episode, where we go through everything in detail, provide vocabulary and explanations of all the Italian included in our soap opera. There's also the video version, so that will let you view the video, see the words on the screen as you're listening to the audio. You can find about all of this at coffeebreakitalianplus.com. Of course, don't forget that you can follow Coffee Break Italian on social media. We are at Learn Italian on Twitter, and search for Coffee Break Italian on Facebook for our regular cultural and language challenges. And keep up with all of us here at Coffee Break on Instagram, where we are at Coffee Break Languages. Don't forget, too, that you can check us out on YouTube, where the Coffee Break Languages YouTube channel provides more content to let you practice your Italian and indeed your other languages. And coming up soon on our YouTube channel is a little introduction video to our new offices and our new studio in Glasgow. So we're excited about that. Sì. È tutto per oggi. Grazie molte e arrivederci. A presto. You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radiolingua Network. Copyright 2018 Radiolingua Limited. Recording copyright 2018 Radiolingua Limited. All rights reserved.